Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, la vicenda Monte dei Paschi. Insomma, le accuse sono pesanti, sequestrato 1.800 milioni dalla Guardia di Finanza nei confronti Banca Nomura su ordine della Procura di Siena nell'ambito dell'inchiesta. 14 milioni e mezzo sono stati sequestrati anche a Musseri, Vigne e Baldassarri, i tre principali indagati nel Monte dei Paschi, ed è indagato anche il presidente di Banca Nomura, Sadek Sayed, insieme al dirigente della stessa banca giapponese, Raffaele Ricci, per ostacolo aggravato all'esercizio delle autorità di vigilanza, infedeltà patrimoniale aggravata e false comunicazioni sociali in concorso con Mussari. Però poi la banca giapponese Nomura International non sarebbe indagata perché, secondo quanto prevede la legge 231, i reati contestati al presidente pro tempore e al dirigente italiano non sono contestabili alla banca stessa. Comunque, la banca giapponese Nomura, alla quale appunto oggi sono stati sequestrati 1.800 milioni, avrebbe avuto 88 milioni costituiti da commissioni occulte, e anche questa cifra è stata sequestrata. Contestati anche i reati di usura aggravata e truffa. Insomma, la situazione si complica parecchio per il Monte dei Paschi, e ne parleremo in apertura, per gli ex dirigenti del Monte dei Paschi, e ne parleremo in apertura. Per quello che riguarda invece gli altri temi, rapporto banche territorio e allarme lanciato di nuovo dalla Confindustria, sarà questo il nostro approfondimento nella seconda ora. Perché? Perché da un lato il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, oggi in audizione alla Camera ha detto: in Italia c'è un'emergenza di liquidità, nel senso che da un lato manca la liquidità delle banche verso le imprese, dall'altro lo Stato non paga 91 miliardi almeno gli arretrati stimati dalla Panucci, ossia i debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese italiane. E tra l'altro la Panucci ha definito il decreto sblocca debiti, quello varato dal governo, complesso e con procedure troppo articolate, con il ricorso a numerosi provvedimenti di attuazione e con la necessità di un coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali che non si preannuncia facile. Sempre il direttore generale di Confindustria ha fatto notare che sono raddoppiati i fallimenti delle imprese in 5 anni. Questo lo dico visto che alcuni di voi ci chiedono il raffronto, e sono semplicemente raddoppiati. Erano 3.596 nel quarto trimestre del 2012 contro i 1.800 fallimenti del quarto trimestre 2007, quindi quello dell'ultimo trimestre prima del 2008, dell'inizio della crisi. Raddoppiati, la dice già tutta sull'entità dei fallimenti, e chiaramente non c'è stato un raddoppio delle nuove imprese nate, anzi. Questo è il tema della seconda ora del programma. Dicevo in apertura, Monte dei Paschi, borsa e anche altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Ascolteremo anche la voce di Mario Draghi, ma anche quella del capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, che oggi ha tenuto una conferenza stampa sulla situazione economica globale, ma anche e soprattutto su quella italiana. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo dalla borsa con le notizie in breve. -0,56% in questo momento Milano, ma anche Parigi, -0,30% Francoforte, -0,50% Londra, +0,50% invece gli Stati Uniti, euro a quota 1,31, recupera Pirelli dopo i cali delle ultime sedute, +2,40%, Finmeccanica +2,30%, Mediaset +2% come Monte dei Paschi e Fiat, ma anche Atlantia, Buzzi Unicem +1,5%, Popolare Emilia Romagna +1,40%. Perde A2A -3,60%, ma molto era cresciuta dall'annuncio dei dati del piano industriale. Salvatore Ferragamo meno 3,20, Saipem meno 2,90, Autogrill meno 2,5, Tod's meno 2,2, Prismian meno 1,90, Parma, la Telux Ottica meno 1,70, l'Automatica Generali e Azimuth perdono 1,5%. Le altre notizie, dicevamo, adesso arriviamo subito a Draghi e a Blanchard, però l'oro prosegue il suo calo e nelle ultime due sedute ha perso il 13%, siamo a 1.346 dollari l'oncia, ce ne siamo occupati ieri. La banca d'affari americana Goldman Sachs ha diffuso i dati sui primi tre mesi del 2013 e l'utile netto sale a 2 miliardi e 260 milioni, sono 100 milioni in più rispetto di dollari rispetto ai primi tre mesi del 2012. E l'utile per azione è a 4,30 dollari contro i 3,87 dollari, a dimostrazione che le banche d'affari americane stanno andando bene e la crisi l'hanno ampiamente superata, mentre l'agenzia di rating, quella che danno i voti ai debiti degli stati oltre che dei privati, Moody's, ha detto che peggiorano le prospettive del voto sulla Cina, però è un AA3 in questo momento. Dalla Germania si è saputo che la con società tedesca di Vodafone, Vodafone Deutschland, intende tagliare in Germania 500 posti di lavoro entro il 2012, anche perché tende ad appaltare ad aziende esterne alcune attività, aziende esterne che si trovano in Romania e India. Mario Draghi è intervenuto anche oggi al Parlamento europeo. La ripresa in Europa ci sarà nella seconda parte dell'anno, ma attenzione, è soggetta al rischio di avvitarsi in spirale negativa. E cioè una ripresa molto molto debole, per come la capisco io, e fragile, quindi non certa, non di tendenza. Ancora, sempre Mario Draghi ha detto: attenzione, serve una supervisione unica sulle banche prima dell'estate, quindi deve essere finalizzata la legislazione sulla supervisione bancaria, quindi la Banca Centrale Europea fa da banca centrale delle principali banche europee dell'area euro, ed è importante anche procedere con il meccanismo di fallimento ordinato delle banche. The Commission's intention to put forward a legislative proposal before summer. L'intenzione della Commissione di presentare una proposta di legge prima dell'estate è della massima importanza. Nel mentre, mi auguro che la direttiva sul meccanismo di fallimento ordinato delle banche venga adottata. Tutto questo contribuirà a dare una serie di regole coerente e ampia. Un'unione economica più profonda significa di più che sistemare il sistema finanziario. Ecco perché vediamo con favore la proposta di portare avanti iniziative su riforme strutturali. A questo proposito è fondamentale che i paesi portino avanti un percorso di riforme indicando una specifica tempistica, così da facilitare un ritorno alla competitività. Ma le regole nuove vanno bene solo se c'è l'impegno di rispettarle. È perciò importante che la legislazione attuale sia finalizzata durante il semestre europeo. Rappresenterebbe un vero test per la credibilità delle linee di governance dell'Unione Monetaria Europea. This represents a true test of the credibility of the European Monetary Union's governance framework. Così appunto Mario Draghi, e fa il paio quanto ha detto Mario Draghi con quanto oggi previsto dal Fondo Monetario Internazionale. Allora, il Fondo Monetario Internazionale dice: l'Italia è sulla strada giusta e entro la fine del 2013 la gran parte degli aggiustamenti sul debito, si chiamano fiscali in inglese, saranno stati effettuati, così come le prospettive di crescita per il 2014. Perché? Perché il Fondo Monetario Internazionale prevede che il PIL quest'anno nostro calerà dell'1,5%. Io dico che però siamo partiti a dicembre che dovevamo calare del meno 0,5, poi meno 1, poi meno 1,3, ma siamo a meno 1,5, vabbè. Poi tornerà a crescere nel 2014 con un più 0,5%. E la stima sul calo della nostra economia, sulla nostra recessione, è stata rivista al ribasso, quindi peggiorata rispetto a gennaio. dove appunto era un meno 1, siamo già a meno 1,5, mentre quella per il 2014 resta invariata. Tra i grandi paesi europei solo la Spagna farà quest'anno peggio di noi, meno 1,6%. È negativo quest'anno però anche il PIL francese, meno 0,1%, con una disoccupazione alta in Francia all'11,2%. E allora sentiamo il capo economista Olivier Blanchard in questo passaggio della conferenza stampa, in cui illustra sia le prospettive, lo scenario globale, che quello specifico sull'Italia. We have moved from a two-speed recovery to a three-speed. Ci siamo mossi da quella che finora è stata una ripresa a due velocità a una ripresa a tre velocità. Le economie dei mercati emergenti sono ancora forti, mentre nelle economie avanzate pare ci sia una crescente biforcazione tra Stati Uniti da un lato ed Eurozona dall'altro. E le nostre stime lo confermano. Per i mercati emergenti è attesa una crescita del 5,3% nel 2013 e del 5,7% nel 2014. Negli Stati Uniti la crescita è prevista all'1,9% nel 2013 e al 3% l'anno dopo. Al contrario, per l'area euro è attesa una contrazione dello 0,3% nel 2013 e un più 1,1% nel 2014. La contrazione della zona euro non riflette solo la ben nota debolezza della periferia, ma anche una certa debolezza del nucleo forte. In Germania la crescita si rafforza, ma solo dello 0,6% nel 2013. In Francia è atteso un dato negativo. La debolezza dei paesi del nucleo forte è una cattiva notizia, soprattutto per quelli periferici della zona euro, che dipendono molto dai paesi centrali. In molti paesi periferici, soprattutto in Italia e in Spagna, è prevista una sostanziale contrazione nel 2013. Italy and Spain are expected to have substantial contractions in 2013. E poi, sempre lo stesso Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, che a noi piace molto perché fu il primo a dire a fare autocritica sul modo in cui si era cercato di risolvere la crisi in Grecia, a Cipro, in Spagna, in Portogallo, e a dire un mese fa abbiamo sbagliato, i soli tagli, l'austerità, le tasse non stanno facendo uscire i paesi, anzi li stanno invischiando in una spirale negativa. Per cui apprezziamo l'autocritica e apprezziamo anche, diciamo, la proposta. Ma dicevo, lo stesso Blanchard ha invitato le banche dei paesi del sud Europa a abbassare i tassi di interesse praticati alle imprese oltre che ai cittadini. Sono ancora troppo alti per assicurare la ripresa e c'è bisogno di ulteriori misure per rafforzare le banche. Lo dico perché ne parleremo nella seconda ora del programma. Ma oggi l'Associazione delle Banche Italiane ha fatto sapere che le banche continuano a prestare meno 2,3% i prestiti a marzo a famiglie e imprese, contro il meno 2,6% di febbraio. Di Confindustria abbiamo già detto. C'è un altro tema che è rimasto fuori e vorrei esaminarlo però dopo alcune notizie che riguardano in questo caso non gli sprechi della pubblica amministrazione, ma la nostra vera vecchia rubrica o appuntamento. Ma cos'è questa crisi? 349-238-6666 per i vostri sms e invece Focus Economia alla pagina su Facebook. Se mi date la versione lunga, quella, non quella breve, di ma cos'è questa crisi, se ce la facciamo, così torniamo con un vecchio classico. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, non è uguale per tutti, questo lo diciamo da anni. Perché? Perché gli stipendi medi dei numeri 1 di Wall Street sono cresciuti negli ultimi due anni del 16%. Qui torniamo, non posso far sentire ogni volta quel brano di Gordon Gekko sull'avidità. Però dico, è pazzesco, perché i numeri 1, cioè i top manager di Wall Street, si sono già ampiamente ridati bonus alla faccia delle dichiarazioni, degli inviti, della retorica, più 16% in due anni gli stipendi, mentre i loro dipendenti, che hanno avuto colpe molto minori nel gestire i rischi che poi hanno fatto esplodere la crisi nel 2007-2008, i loro dipendenti più 4%. I loro colleghi a Piazza Affari, cioè chi lavora in borsa, più 12%. Allora, i politici, devo dire che da questo punto di vista, una volta tanto ne escono bene. Barack Obama si è tolto il 5% dalla sua busta paga, Ignazio Visco da noi, governatore della Banca d'Italia, ha tolto il 35% del suo stipendio, rinunciando a 262.000 euro l'anno. Mario Monti non ha voluto lo stipendio da premier, Laura Boldrini e Pietro Grasso si sono dimenticati la busta paga. Questo nella politica. Vediamo cosa fa anche però il settore privato, no? Allora, Herbert Stepic, numero uno della banca austriaca Raiffeisen, ha restituito 2 milioni di euro, il 40% dei suoi compensi, perché non è giusto essere remunerati in modo così sproporzionato. Anche l'ex amministratore delle HBOs, James Crosby, ha rinunciato a scoppio un po' ritardato al titolo di cavaliere e a un terzo della sua pensione, che così scende a 300.000 euro al mese. Cioè, ha rinunciato un terzo perché era sostanzialmente intorno ai 450.000 euro al mese e quindi adesso gli tocca vivere solo con 300.000 euro al mese, e ha riconosciuto anche le sue colpe nel crack della banca salvata 2 anni fa dai contribuenti inglesi. Comodo riconoscere le colpe quando hai 300.000 euro al mese di pensione. I governi di tutto il mondo hanno pagato in questi anni, hanno tirato fuori per salvare le banche mondiali 3.500 miliardi per i guai combinati da manager strapagati. Io non lo dimentico questa cosa, mi sta salendo un Gordon Gekko, purtroppo sta salendo, e hanno varato un giro di vite sui superstipendi. Però attenzione, in Italia per esempio nel 2006 le stock option ai dirigenti di massimo livello delle banche erano pari a un controvalore di 500 milioni di euro, cioè mezzo miliardo. È vero che adesso il vento è girato e sia Profumo a Monte dei Paschi che top manager di Mediobanca si sono autoridotti del 40% della loro busta paga, anche i numeri uno di grandi gruppi, penso a Martin Winterkorn, numero uno di Volkswagen, che ha chiesto al Consiglio di Amministrazione un taglio ai suoi monumenti, tra l'altro guadagna 20 milioni di euro l'anno, per cui lo può anche spiegare. Ripeto, in tutto questo chi lo sforzo non lo sta facendo sono i grandi manager i molto pagati manager delle banche d'affari americane, appunto più 16% negli ultimi 2 anni. Gordon, l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Oh, la buona notizia arriva dalla giunta Zingaretti, e quindi colpo di forbice alle spese di consiglio, agli spendi dei consiglieri. Il bilancio approvato dalla giunta Zingaretti sostanzialmente è una fetta di bilancio che vale 16 milioni di euro l'anno. Quindi Regione Lazio. Se prima per l'indennità dei consiglieri si spendevano 12 milioni l'anno, ora, considerato anche il taglio a 50, si arriverà a 6 milioni e mezzo l'anno. con un risparmio di circa 30 milioni in 5 anni, 30 milioni di euro. E poi abolite tutte le indennità di funzione e quelle aggiuntive come rimborsi chilometrici. Questo vuol dire che i consiglieri passeranno da una busta netta di 8.100 euro al mese a circa 6.800 euro. I presidenti di giunta e consiglio passano da 11.400 a 7.800 euro. E poi vitalizio abolito per tutti e sarà inoltre bloccato a chi, già avendolo, incorrerà in una condanna penale definitiva con interdizione dai pubblici uffici. Non è poco risparmiare 30 milioni in 5 anni per una provincia. Mentre abbiamo casi meno virtuosi, e anche qui l'Italia è vero che è un paese lungo, ma delle volte vicinissimo, Agrigento. Allora, la regione Sicilia ha abolito le province qualche settimana fa, ma c'è chi non se n'è accorto, era distratto quel giorno, era in bagno. Perché il presidente della provincia di Agrigento continua a nominare assessori, ma porca miseria, manca un mese alla scadenza del suo mandato. La provincia la chiudono, ma che cosa nomini gli assessori? Dal 2008 Eugenio Dorsi ha nominato 50 assessori, praticamente uno al mese, forse spera di risolvere il problema della disoccupazione in Sicilia in questo modo, fra cui Valentina Palumbo, 42 anni, di Grotte, provincia di Agrigento, che è durata da martedì 2 aprile a lunedì 8 aprile. Un record e un attimo di, diciamo così, un minuto di silenzio per la più breve carriera nella storia, penso, di un assessore nella storia mondiale, inclusa l'Alaska e incluso il Polo Nord. Mentre l'applauso però lo vorrei congiunto, perché da Agrigento passiamo a Bologna, dove negli ultimi sei mesi del 2012 il comune ha speso 800.000 euro per consulenze esterne, e sono quattro volte i soldi impiegati nei primi sei mesi. Incredibile, 800.000 euro di consulenze. La ristrutturazione della piscina Carmen Longo, 77.000 euro per il collaudo della piscina a copertura mobile, 237.000 euro la COP Politecnica dell'Università di Modena, che ne ha curato il progetto di recupero tramite aggiudicazione diretta. E poi la consulenza pagata a Andrea Ruggeri, che da luglio cura la comunicazione del sindaco e della giunta, per un costo anno di 90.000 euro. Ne è già stata pagata una prima tranche da 38.000 euro. Ora, per carità, ma è veramente necessario pagare 90.000 euro per la comunicazione del sindaco della giunta? Non nel senso che la comunicazione non sia importante, ma mi chiedo, non c'è nessuna struttura interna al comune di Bologna che possa permettere di risparmiare 90.000 euro per un'attività importante ma non cruciale? Un sindaco, sei sindaco, può anche comunicare da solo, e lo dice uno che la comunicazione la fa, però una struttura interna, l'ufficio stampa interno ce l'avrà il comune di Bologna, no? Vorrei capire questa consulenza esterna che cosa porta, così come obiettivamente 77.000 euro per collaudare una piscina, ma se ce lo dicevate a noi mandavamo tutti i dipendenti della D24 a un decimo e facciamo pure il bagno. Ma ragazzi, ma per favore, 77.000 euro per collaudare una piscina, dai. Meteo, no, c'è chi si sta offrendo di collaudare, dai, facciamogli l'applauso al comune di Bologna e alla provincia d'Agrigento e alla povera Valentina Palumbo, assessore per sole praticamente quattro giorni. Meteo, pubblicità, e poi andiamo sul Monte dei Paschi di Siena, dove ormai i sequestri, oggi un sequestro record, 1 miliardo e 800 milioni di euro a banca Nomura, e poi vengono chiamati in causa sempre ormai i tre, Mussari, Vigni e Baldassarri. Non sono però i re magi, ma sono re non magi. Dai, dopo il meteo e la pubblicità. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giustamente alcuni di voi scrivono al 349-238-6666 e anche su Facebook: ma com'è che la pubblica amministrazione, in questo caso il comune di Bologna, ha i soldi per le consulenze e non per pagare i debiti alle imprese che hanno già fornito servizi Ebbene, è vero, è vero. Io, a meno che non diciamo che il Comune di Bologna non ha nulla, io questo non lo so, non ha un arretrato con nessun fornitore privato. Buona regola civile, soprattutto se rappresenti la collettività, prima paghi i debiti e poi fai altre spese, no? Che lasci i chiodi dall'alimentarista e vai a comprarti l'abito, no? Allora, prima di spendere 800.000 euro per consulenze in 6 mesi, quadruplicate rispetto ai primi 6 mesi, caro Comune di Bologna, e prima di trovare i soldi per chi ti deve fare la consulenza sulla comunicazione, fatela da solo e paghi i fornitori, se li hai già pagati tutti. Poi magari ci scriverà il Comune di Bologna che non ha neanche un euro di ritardo nei pagamenti, magari. Allora, invece vedo molte battute sul fatto di Tre Maggi, perché adesso sulla vicenda Monte dei Paschi, ogni volta che si muove la procura, comunque le accuse sono all'ex presidente Musseri e poi a Vigni e Baldassarri. Musseri, Vigni e Baldassarri. Molti di voi giocano sulle parole Tre Maggi, qui c'è oro, incenso e mirra, no, qui c'è solo oro da quello che vediamo dell'accusa della procura. A noi, quando parliamo dei tre, Musseri, Vigni e Baldassarri, lo dico con anche un po' per scherzare, ci mancherebbe, senza nessuna offesa. Qui però c'è la procura che gli dà reati di usura aggravata, truffa, ostacolo aggravato all'esercizio dell'autorità di vigilanza, infedeltà patrimoniale aggravata e false comunicazioni sociali. Tre sono: Musseri, Vigni e Baldassarri. Tre. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. In un tiepido mattino se ne vanno i porcellini. Sara Monaci, buonasera. Buonasera. Facciamo, perché sennò adesso il tema è di quelli, no? Che pesano. Allora, tra l'altro, qui la casa, devo dire, dopo gli ultimi conti che abbiamo visto in Monte dei Paschi, lo dico a onore di Alessandro Profumo e del ministro delegato Viola, la pulizia è stata fatta. Qui ci stiamo occupando di ciò che è stato fatto nel passato, e quindi l'indagine della Guardia di Finanza. Sì. E della procura. Allora, 1.800.000.000 sequestrati a Banca Nomura. Esatto. E 15 milioni di euro quasi sequestrati anche a Musseri, Vigni e Baldassarri. Perché? Sì, perché da oggi c'è una novità importante, anzi due. Prima di tutto esiste un nuovo reato molto grave, che è l'usura aggravata, di cui non si era ancora parlato. E ricordo che è un reato più grave della truffa, perché si arriva ad un rischio di carcere che può arrivare fino a 15 anni. Nomura, dicevamo, appunto, ha avuto questo sequestro, 1,78 miliardi, perché si ritiene che i suoi responsabili, Saded Sayed, Raffaele Ricci, responsabile il primo del mercato europeo e del Medio Oriente, il secondo proprio dell'operazione derivati con MPS, avrebbero quindi commesso il reato di usura aggravata e truffa aggravata. Questi due nomi compaiono per la prima volta nel registro degli indagati. Ecco, perché quindi, usura? Sì. Perché truffa, ci arriviamo, diciamo, perché usura? Beh, usura perché si ritiene che Nomura, facendo questo prodotto derivato di cui si è parlato, questo mitico Alexandria, che è stato prima sottoscritto nel 2006 con la Dresdner e poi rinegoziato con Banca Nomura nel 2009, avrebbe provocato una grave perdita, e questo lo sappiamo, per MPS, una perdita che appunto Profumo e Viola conteggiano in 730 milioni, tanto che loro stessi hanno chiesto i danni agli ex vertici con un atto di citazione che verrà approvato in assemblea tra qualche giorno. Però qui c'è un elemento in più, cioè si dice che Nomura avrebbe avuto dei profitti illeciti molto molto favorevoli per sé e molto molto sfavorevoli per MPS, tanto appunto da essere simile a un reato di usura, appunto, un'usura aggravata perché si tratta di banche, una banca su un'altra banca, un'usura che può essere conteggiata in 1,7 miliardi. Si parla sostanzialmente di un contratto che per MPS aveva tra i 3 e i 4 punti percentuali inferiore rispetto a MPS, con le mitiche commissioni occulte che abbiamo già visto per i prodotti derivati con gli enti locali, qui tornano di nuovo e sono ben 88 milioni. Sì, infatti i PM dicono che la banca Nomura ha avuto 88 milioni di euro di commissioni occulte, cifra sequestrata. È interessante vedere come, tu fai bene a far notare che l'usura, il reato di usura si dà alle persone fisiche nei confronti di altre persone fisiche o delle volte a società finanziarie nei confronti di persone fisiche. L'usura di una banca su una banca ancora non l'avevamo vista. Non si era visto. In realtà ecco, però, bisogna precisare che tecnicamente infatti Nomura non può essere indagata. Sì, loro l'hanno precisato infatti. Per questo motivo, ma è un fatto diciamo scivoloso ma importante. Nomura è una banca, MPS è un'altra banca, la responsabilità oggettiva delle società, che è questa legge, la 231 che abbiamo più volte visto con gli enti locali e con le banche, non può essere estesa quando si tratta di due privati, perché quando si tratta di due privati relativamente ai reati di usura e truffa ci vuole una persona fisica con una responsabilità individuale su un'altra persona fisica. Quindi diciamo che qui il reato è stato tecnicamente compiuto da, sarebbe, ovviamente giusto usare il condizionale perché qui siamo ancora nella fase di indagine, dall'ex amministratore delegato Sayed, che Nomura adesso precisa è uscito dalla banca Nomura a marzo 2010, quindi non è più amministratore delegato, però aggiungo io cambierebbe poco perché il reato di cui lui sarebbe stato accusato è stato comunque commesso tra il 2008 e il 2009, quindi avrebbe comunque le sue responsabilità. E poi da Raffaele Ricci, che ha questa particolarità. Ricci fu lui a firmare il primo contratto Alexandria nel 2006 in quanto manager di Dresdner, poi lo avrebbe rinegoziato come manager di Nomura, cioè uscito da una banca, andato in un'altra banca, ha fatto la stessa operazione. Devo dire, adesso non voglio beccarmi gli stessi, però devo dire che questa cosa per cui manager che avevano creato gli strumenti derivati in varie banche, penso a Dresdner ma non solo, Bankers Trust e quant'altro, poi vanno in altre banche, si portano tutto il loro, diciamo, le loro pozioni da alchimia e le ripropongono, cioè questo l'abbiamo visto anche in tutta la vicenda Monte dei Paschi, cioè come una partita di giro di manager che venivano da altre banche famose per operare con i prodotti derivati e quindi con assunzioni di grandi rischi, che poi vanno in un'altra banca e ripropongono gli stessi strumenti, le stesse consulenze e quant'altro, fino ad arrivare al fatto che citavo, senza che nessuno si arrabbi, di chi come Banchetti viene, è stato chiamato dal Monte dei Paschi, lui che gli strumenti derivati li aveva lanciati a Londra ed era uno dei massimi esperti, è stato chiamato dal Monte dei Paschi per capire che cosa loro si fossero comprati. Io ho fatto l'esempio, diciamo, dell'hacker a suo tempo, che viene chiamato dal Pentagono, con un'unica differenza, che l'hacker è illegale prima e poi il Pentagono lo assume per capire com'è. Mentre in questo caso parliamo di persone che erano prima la controparte e poi vengono chiamate a fare la consulenza. In generale non ce l'ho con Banchetti e basta, è inutile che mi scriviate, mi facciate scrivere dagli uffici stampa, per favore. Dopo il traffico andiamo avanti. Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Allora, Musseri, Vigne e Baldassarri, Sara Monaci, abbiamo capito che la parte nuova riguarda il reato di usura aggravata e truffa. A questo punto, dopo il sequestro di 1,8 miliardi su Monte dei Paschi, quali saranno i prossimi passaggi? Perché i capi d'accusa iniziano a essere dire pesanti, quasi un eufemismo. Direi che c'è anche un'altra cosa da sottolineare. Sì. C'è il reato di usura e ci sono due nomi nuovi nel registro degli indagati. Sadek Sayed e Raffaele Ricci. E Ricci. C'è anche un altro elemento, che non si è mai visto un sequestro di 1,8 miliardi. Hai ragione. Tant'è che non si sa nemmeno se verranno fisicamente trovati, cioè questo dettaglio non è da sottovalutare, perché sulla carta esiste questo sequestro ed è il motivo per cui poi i procuratori hanno chiesto al nucleo valutario della Guardia di Finanza di andare questa mattina in Banca Italia, perché hanno bisogno di un supporto tecnico per bloccare le operazioni di Nomura, che ad oggi manda addirittura un comunicato questa sera dicendo che non è stato bloccato nulla nelle loro casse. Si tratta chiaramente di giocare con gli equivoci, nel senso che Nomura un sequestro lo ha tecnicamente avuto, fisicamente forse questi soldi non si riesce nemmeno a capire se si arriverà ad averli tutti quanti. Per me si tratta di una cifra così grande che quasi corrisponde ad un blocco delle attività in soldoni, in pratica, delle attività italiane. Di Nomura, sì, un miliardo e otto è, voglio dire, sì. La capitalizzazione di una grande banca, sì, di una banca medio grande, attenzione. Allora, l'ultima, ma a questo punto, per quello che riguarda, insomma, Mussari, Vigni, Baldassari, a questo punto anche Raffaele Ricci, quando si arriverà a questo, alla redazione, cioè al giudizio? Perché allora, il materiale raccolto ormai mi sembra essere... Ma allora ci sono sulla questione, ci sono due filoni, lo ricordo, il filone dell'acquisto di Anton Veneta, dove ci sono queste accuse di ostacolo alla vigilanza, di falso in bilancio, di mancate comunicazioni a Banca Italia. Significa sostanzialmente che la banca acquistò un'altra banca senza avere la capacità patrimoniale di farlo, ingannando Banca Italia, quindi dicendo di avere un capitale invece di averne un altro. Ecco, per questo filone d'inchiesta si sta arrivando un po' più all'arrivo, probabilmente entro quest'estate verrà chiusa l'indagine, però ricordiamoci che i tempi poi della giustizia italiana hanno una certa lunghezza, per cui è possibile che si arrivi ad una richiesta di rinvio a giudizio in ottobre e l'udienza preliminare io ritengo che non prima di febbraio 2014. Sui derivati, che è questo filone qui, dico brevemente, i derivati stanno proseguendo proprio perché ogni giorno, ogni mese stanno venendo fuori cose nuove, tra cui questo ultimo aspetto. Sì, alcuni ascoltatori chiedono ma è il ruolo e la responsabilità della Fondazione Bancaria Monte dei Paschi. Beh, su quello vedremo cosa concluderanno poi i PM, no Sara? Sì, ecco, diciamo ad oggi non sono direttamente parte in causa, nel senso che non ci sono reati che coinvolgono persone della fondazione. Certo è che da un punto di vista, diciamo, dell'opportunità e politico per una fondazione indebitarsi fino ad avere oggi dei debiti, quindi non riuscire più a dare delle non tanto beneficenze, proprio dei finanziamenti. Il lavoro della fondazione sul territorio dovrebbe essere questo. È perduto, certo. Anzi arriva proprio in contraddizione con se stesso, non dà più soldi ma ha bisogno lei di restituirne. Per fare cosa poi? Per aver comprato una banca che era peraltro fortemente indebitata, quindi la responsabilità, se non penale, sicuramente è politica. Politicamente non ci sono dubbi, lo dico con massimo rispetto per Mancini, l'ex presidente, ma insomma dai, non scherziamo, non è che la fondazione non potesse sapere, li abbiamo battezzati i tre perché sono in tre, ma voglio dire, non operavano di notte nel silenzio con la mascherina da banda Bassotti, Mussari è anche presidente dell'ABI, su questo potremmo dire molto, ma non ho voglia adesso. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. In un tiepido mattino se ne vanno i porcellini, dimenando al sole i loro codini, spensierati e birichi. Meno 0,61% Milano oggi, meno 0,67% Parigi, meno 0,40% Francoforte, meno 0,60% Londra, più 0,86% l'America in questo momento. Non ci sono enormi notizie in borsa, recupera Pirelli più 2,46% e invece realizzi su A2A meno 3,72%. Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, realizzi dopo il lungo rally di rialzo per A2A e va bene, Pirelli invece mi sembra che respiri un po' dopo i cali continui, l'archiverei così, però se ci sono novità dimmelo. Invece, sintesi perfetta. Ti ringrazio, ci salutiamo, arrivederci, ciao. No, e invece su RCS, Rizzoli per la sera, ancora sono dolori, Eh sì, il titolo è calato ancora, poco prima della chiusura cedeva circa il 4%, poi ha recuperato, sto verificando adesso, alla fine ha ceduto l'1% e comunque pesa quello che è stato il bilancio del 2012, con delle forti svalutazioni che hanno portato a una perdita di 509 milioni, e questo nonostante sia stata sbloccata la prima tranche del grosso aumento di capitale che di fatto garantirà la continuità aziendale al gruppo. Allora, gli altri titoli dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08 riprende la seconda parte di Focus Economia. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa. Ciao Condina. Dicevo, al di là dei realizzi su A2A e del recupero parziale per Pirelli, oggi debole tutto il settore del lusso, Tod's meno 2,80, Ferragamo meno 3,40, Luxottica meno 1,80. Eh sì, anche Brunello Cucinelli ha perso il 3,1%. A che cosa è da legare questo andamento delle società del lusso a Piazza Affari? Chiaramente è una tendenza europea che è stata influenzata a sua volta dalla trimestrale di Louis Vuitton, numero uno al mondo del lusso, che ha annunciato vendite in crescita nel primo trimestre del 6%, un dato all'apparenza positivo, ma che tuttavia rispetto al primo trimestre dell'anno scorso ha segnato un rallentamento della crescita. In più c'è anche la frenata della divisione pelletteria, che include le famose borse di Louis Vuitton, che ha visto anche qui vendite in aumento del 3%, ma si tratta del ritmo più contenuto degli ultimi tre anni. Insomma, le prime avvisaglie di un possibile rallentamento della crescita che appariva senza freni di questo settore, e gli operatori dunque hanno servito questi titoli. Allora, migliori e peggiori in assoluto oggi, dicevamo già del gruppo Rizzoli, comunque Compagnia della Ruota meno 5,47, Enertronica meno 5,32, Renault meno 5%, fronte opposto invece Ambro Mobiliare più 4,90, Monriff più 4,70, Acea più 4,40. Acea ha prospettive abbastanza positive sul 2013. Sì, si aspetta che torni insomma a generare casa per ridurre l'indebitamento. In più c'è anche il famoso decreto sui debiti della pubblica amministrazione, e Acea in questo caso vanta 235 milioni di crediti. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. E proprio dei crediti e anche dei crediti che le imprese vantano rispetto alla pubblica amministrazione parleremo adesso. Devo dare due risposte velocissime, anzi una risposta e una notizia. Dunque, intanto il ministro Fornero che ha detto poco fa occorre contrastare il pessimismo durante l'incontro con le parti sociali, a cui faceva riferimento anche il nostro GR, per trovare le risorse per la cassa integrazione in deroga, ce ne siamo occupati ieri, e ha detto a proposito degli effetti della crisi: nella seconda metà dell'anno dovrebbe esserci un briciolo di ripresa. Un briciolo di ripresa io ancora non l'avevo sentita, vorrà dire che dopo i tre porcellini metteremo anche Pollicino come base. E a proposito dei tre porcellini, c'è qualcuno che si è offeso, ma come vi permettete di far sentire i tre porcellini mentre parlate di Musseri, Vigne e Baldassari, la vicenda del Monte dei Paschi? Allora, punto 1, le vittime di questa vicenda sono gli azionisti, gli obbligazionisti, i dipendenti del Monte dei Paschi in primo luogo, i cittadini italiani che hanno tirato fuori 4 miliardi per salvare la banca, e tutti gli imprenditori che la banca non potrà più, a cui la banca non potrà più fornire credito. Queste sono le vittime. Io avevo capito così, non avevo capito che quando crei un buco del genere, che sostanzialmente porti al collasso la più vecchia banca del mondo con operazioni derivate, in cui oltre all'errore in sé c'è, stando all'ipotesi della procura, truffa, falso, devo rileggere tutte, truffa, falso, addirittura usura e ostacolo all'attività di vigilanza, non avevo capito che i tre fossero le vittime. Chiedo scusa se qualcuno si è offeso per i tre porcellini, ma resto dell'idea che sia più grave quello che hanno fatto che la canzone in sé. Detto questo, giusto perché ogni tanto sembra quasi che l'abbiamo creata noi, no? I problemi a Musseri, Vigne e Baldassarri. Detto questo, adesso però occupiamoci delle imprese e dei soldi che a loro dovrebbero arrivare dal decreto del governo. direttore generale della Confindustria Marcella Panucci, oggi in audizione alla Camera sul decreto del governo per dare parte dei 91 miliardi che le imprese aspettano dalla pubblica amministrazione, 40 miliardi in due anni. Ha detto: attenzione, il decreto è complesso, le procedure sono complicate, c'è la necessità di un coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali che non si preannuncia facile, anche se ha riconosciuto che è un provvedimento che la Confindustria chiede da tempo, e però ha lanciato l'allarme sulla liquidità. È una vera e propria emergenza per le imprese italiane. Come voi immaginate, si tratta di un provvedimento molto importante che chiediamo da tempo ed è positivo soprattutto in una situazione in cui le imprese stanno soffrendo pesantemente di una forte crisi di liquidità, situazione peraltro fotografata nella stessa relazione che i saggi hanno presentato al presidente Napolitano. Che l'Italia sia in emergenza di liquidità è noto ed è purtroppo il terzo credit crunch che stiamo affrontando, il primo nel 2007-2009, il secondo nel 2011-2012, quindi una fase molto complicata. I prestiti alle imprese da parte delle banche sono in caduta libera, a febbraio sono stati meno 5,1% rispetto al livello di settembre 2011 e lo stock erogato si è ridotto di 47 miliardi, una situazione che non si vedeva dal dopoguerra. E le banche sono sempre più selettive, i prestiti calano come evidenti, i tassi salgono. Un terzo delle imprese ha liquidità insufficiente rispetto alle esigenze operative, sono imprese che hanno progetti di investimento validi, quindi con attese di fatturato tali da poter pagare il servizio del debito, che però vanno in crisi per carenza di fondi nel breve periodo. Gli spread pagati dalle imprese hanno toccato nuovi massimi, 3,4 punti contro 0,6 in media nel 2006. Allora, del rapporto banche e imprese parleremo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e anche la pagina di Focus Economia su Facebook. E non c'è solo l'allarme, il nuovo allarme di Confindustria sulla liquidità, che è un'emergenza per le imprese. La Panucci, direttore generale, si riferiva chiaramente ai debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, 90 miliardi e passa, però la liquidità manca in generale alle imprese, e il doppio fronte è da un lato i debiti che deve saldare la pubblica amministrazione, dall'altro però è anche il rapporto, inutile girarci attorno, banche con le imprese. Lo ha ribadito in maniera molto netta e molto forte ieri Mario Draghi da Amsterdam, ha detto: occorre che il sistema bancario in alcuni paesi, riferimento era anche all'Italia, immetta liquidità, cioè che la cinghia di trasmissione. Noi abbiamo difeso le banche a livello europeo con il piano OMT e quindi abbiamo anche tutelato le banche oltre che l'euro, però poi questa cinghia di trasmissione deve passare dalle banche alle imprese, quindi finanziare, chiaramente non progetti fallimentari né spese correnti, ma finanziare e garantire la liquidità, che poi significa garantire anche la sopravvivenza delle imprese stesse. E infatti oggi però il dato dell'ABI segnala, dell'Associazione delle Banche Italiane, un altro calo del 2,3% nei prestiti alle famiglie e alle imprese. Era peggio nel mese di marzo, dove si faceva meno 2,6, però è prossimo allo zero la dinamica dei mutui, ma il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, ha detto: attenzione, il piano della Banca Centrale Europea, l'OMT, ha ridotto i rischi di coda, ma non è abbastanza. Gli interessi sui prestiti nei paesi periferici dell'area euro sono ancora troppo alti per assicurare la ripresa. E ricordo, concludo, che Wall Street Journal ieri faceva notare come un'impresa tedesca o francese paga mediamente il 3,5% per un prestito da 1,5 milioni di euro, mentre una italiana spagnola arriva al 6%. Questa è concorrenza sleale all'interno di un sistema che ha la stessa valuta, perché poi tutti usiamo l'euro. Ecco perché accogliamo con favore tutte le iniziative che vanno verso un finanziamento del territorio, di imprese, quindi delle industrie presenti nel territorio. Oggi UbiBanca ha presentato il progetto T2, territorio per territorio, realizzato in collaborazione con la Confapi, cioè la Confederazione Italiana Piccola e Media Industria. dovrebbe permettere di erogare fino a 40 milioni di euro per le piccole e medie imprese aderenti all'associazione. Siamo in collegamento con il consigliere delegato di UbiBanca, Victor Massià. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, 40 milioni di euro possono sembrare anche pochi, ma in realtà come verranno utilizzati? Ma credo non siano pochi, perché credo sia importante ricordare il taglio dei finanziamenti. Sì. Stiamo parlando da 15.000 euro a 500.000 euro, quindi conseguentemente stiamo rivolgendoci veramente alla parte piccola delle imprese, ma molto volentieri, perché è la parte che in questo momento è più in difficoltà sia in termini operativi che in termini di accesso ai finanziamenti. La logica con cui noi opereremmo sarebbe quella di avere una raccolta obbligazionaria destinata a questa iniziativa, sulla quale noi raddoppieremmo come banca, che vuol dire che se si attende una raccolta in obbligazioni quotate al MOT, quindi negoziabili, di 20 milioni, sulle quali noi metteremmo 40 milioni di impieghi. Ritengo simbolicamente, se mi è concesso, importante rappresentare questo rapporto di 1 a 2 fra la raccolta degli impieghi, perché forse non tutti sanno che anche a livello di sistema complessivo gli impieghi sono maggiori della raccolta, cioè le banche italiane stanno prestando più di quanto raccolgono, situazione abbastanza anomala a confronto ad altri paesi. Ciò nonostante noi abbiamo fatto questa ulteriore scommessa proprio perché riteniamo importante accendere qualche scintilla per far ripartire la macchina. Ecco, Massià, voi quindi emetterete un'obbligazione da 20 milioni e una volta sottoscritta sarete in grado, se ben capito, di prestare per 40 milioni, ho capito bene? Perfetto, corretto. Anche perché, lo dico per inciso, dal punto di vista contabile di Basilea 2 e Basilea 3, avere un'obbligazione è meno rischioso e vi permette poi di emettere un prestito più alto. Però mi dica una cosa, quali tipo di programmi, progetti vorreste finanziare? Cioè, se io fossi un piccolo imprenditore, perché se il taglio va da 15.000 massimo 500.000, poniamo che il taglio medio siano 100.000 per comodità e per convenzione, è difficile avere un progetto di lungo termine per soli 100.000 euro. Cioè, voi che tipo di attività immaginate di finanziare? Ma guardi, mi permette di dire, non è così vero, perché certe volte noi perdiamo il senso delle cose. Ci sono dei piccoli imprenditori che per far partire una loro attività artigianale o per fargli fare un salto hanno bisogno veramente di cifre di questo genere qua. Se si crea la possibilità di aprire, non so, di comprare una seconda macchina e creare quindi una seppur piccola ulteriore posto di lavoro, uno, due posti di lavoro per aumentare l'occupazione, questo è un caso proprio di scuola del tipo di progetti che noi andiamo a finanziare. In particolare sono detti progetti di sviluppo con ricadute in termini di nuovi posti di lavoro e programmi di formazione professionale dei dipendenti, che sostanzialmente di nuovo tendono a creare nuova occupazione. Peraltro, per radio evidentemente è difficile, ma c'è una tabella che è possibile consultare che dimostra che noi oltretutto prezziamo a un tasso inferiore i progetti che creano nuova occupazione, confronto ai progetti che semplicemente vanno a coprire un fabbisogno circolante. Le faccio un esempio concreto: a un'azienda con un rischio di credito medio sono 420 basis point di spread per il circolante, 400 per se c'è la garanzia del Confidi della Confapi, 390 e quindi 30 basis point in meno, o 370 con la garanzia Confidi, se invece si va a creare nuova occupazione. E qui mi permetta di dire che a questo punto sono dei tassi molto vicini a quelli tedeschi, nonostante che ci sia un gap su medio periodo di 300 basis point di spread. Quindi se io fossi un imprenditore e avessi la garanzia dei Confidi con Fapi, diciamo, con questo progetto assumessi anche, pagherei un 3,70%? È corretto, un 3,70% di spread su tre mesi. Sì, ma scusi, siccome il tre mesi è nell'ordine di 20 basis point, va a pagare un 3,90%, quindi Complessivamente direi abbastanza basso. Ho capito, ecco, al di là della vostra iniziativa, che ripeto, noi accogliamo tutte le iniziative di qualunque dimensione, lei si sarà fatto, visto che è il numero uno di UbiBanca, che è la più grossa delle banche popolari italiane, avete 1730 sportelli, 4 milioni di clienti e capitalizzate oltre 2 miliardi di euro. Ma dico, lei si sarà fatto anche, dato anche una risposta sul perché la cinghia di trasmissione, come la chiama Draghi, dalla BCE arriva alle banche e poi dalle banche non arriva sul territorio? Sì, è un combinato disposto, un po' articolato, ma credo per una volta valga la pena spendere un paio di minuti, non di più, per dare l'articolazione. Qui abbiamo differenti categorie, nel senso che dal lato dell'offerta, innanzitutto parlando delle banche, ci sono situazioni differenti fra diverse categorie di banche. Io direi che le grandi banche e le banche medio-grandi come la nostra, che hanno messo a posto i coefficienti di capitale e che contemporaneamente hanno una buona o ragionevole situazione di liquidità, non hanno dei vincoli particolari per i prestiti. E quindi si tratta poi di andare a comprendere come si incrocia con la domanda, mettiamolo un attimo da parte. Le banche più piccole, che non hanno accesso ai mercati istituzionali per ottenere ulteriore raccolta, perché attenzione, partiamo dal presupposto che il sistema complessivamente presta più di quanto ha in deposito e quindi ha bisogno di accedere ai mercati internazionali istituzionali, e una parte importante del sistema bancario non vi accede, si trovano nella situazione di non poter fare più di quanto hanno già fatto, e per motivi di funding e per motivi anche in molti casi di coefficienti patrimoniali che sono al limite, e quindi il mercato è già sostanzialmente diviso in almeno due categorie estreme con tutti i casi intermedi. Dal lato della domanda purtroppo ci troviamo in situazioni in cui una parte non banale della domanda non è sana, perché abbiamo le aziende esportatrici che hanno bisogno fino a un certo punto di capitale circolante, perché all'estero si paga molto più velocemente e questo è un fattore determinante, ma lei ne ha già parlato prima. Poi c'è l'aspetto relativo alle industrie che sono correlati al consumo interno, che purtroppo ricevendo meno ordini hanno una minore domanda sana purtroppo di capitale circolante, siccome oltretutto pochissimi capitani coraggiosi sono pronti a fare degli investimenti sugli impianti di medio periodo, lei ha sia minore domanda sul circolante che di minore domanda sul medio lungo termine, e questo è un vizio, è un circolo vizioso da cui dobbiamo uscire, come ha ben detto, che va interrotto, perché è chiaro che poi voglio dire, se l'impresa ha meno ordinativi, fa meno investimenti e quindi chiede meno, o voi avete più difficoltà, voi come sistema bancario, a fare questi prestiti, l'impresa rischia poi di avvitarsi, perché sono proprio i momenti di crisi quelli in cui uno dovrebbe investire, rischi di avvitarsi, di avere sempre meno ordinativi, però poi alla fine tutto il sistema non regge, perché voi vivete anche grazie alla ricchezza che le imprese producono sul territorio. Mi dica un'ultima cosa, visto che lei guida la più grande banca popolare italiana, c'è un caso, quello della Popolare di Milano, per cui loro diventeranno SPA, cioè rinunciano allo statuto di banca popolare che ha tante cose, tra cui il voto capitario, ogni testa pesa per un voto al di là delle quote che tu hai, il vincolo al il tetto alla quota massima che puoi avere e altre caratteristiche del mondo delle banche popolari. Secondo lei, quando una banca popolare è quotata come la Milano, come voi, ha ancora senso che resti popolare? Cioè, la strada dell'SPA non è una strada di maggiore corrispondenza a quello che è a questo punto una banca delle vostre dimensioni e per di più quotata in borsa? Ma guardi, anche qui io cerco sempre di essere fattuale. Noi abbiamo assistito a delle banche SPA che hanno fatto delle performance in termini relativi molto positive e delle banche SPA che hanno fatto delle performance molto negative, e lo stesso è venuto per le popolari. Cioè, in realtà lei non trova una correlazione per cui le SPA performano meglio tutte e le popolari performano peggio tutte. Noi, grazie a Dio, siamo una popolare che però, seppur di poco, ha chiuso con l'inchiostro nero. il bilancio del 2012 e ci sono state delle spacche, hanno chiuso l'incorso rosso. Ora, io credo che sia corretto avere degli accorgimenti per quanto riguarda le popolari quotate di grande dimensione, però da questo dedurre che il semplice essere popolare sia un impedimento per operare in maniera performante, io non ne vedo una manifesta evidenza nella realtà quotidiana. Quindi sì ad accorgimenti per le grandi quotate, ma direi attenzione prima di condannare un modello in quanto tale. Ma quando lei pensa a accorgimenti, a cosa immagina? Per esempio più contendibili? Beh, più contendibili sicuramente, però guardi il caso nostro, noi andiamo in assemblea il sabato prossimo e abbiamo 3 liste e come ho detto ad altri colleghi suoi, viva la democrazia, più contendibili di così. Chiarissimo, grazie a Victor Massia, numero uno di UbiBanca. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.